Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:06 minuti, di nuovo buonasera, gentili ascoltatori della Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Qualcosa vi ha già accennato anche il giornale radio. Parleremo di Grecia in apertura, del fatto che, come era in parte nelle attese, probabilmente già stasera il premier greco Alexis Tsipras chiederà nuove elezioni. La borsa di Atene scende del 3,5%, insomma un calo decisamente netto in una giornata nella quale la stessa Grecia ha restituito una parte del debito nei confronti della Banca Centrale Europea nei giorni che sono seguiti all'approvazione, ne abbiamo parlato ieri, da parte del Bundestag del piano di salvataggio del Parlamento tedesco, e poi è arrivato anche il via libera dell'ISM, il meccanismo di salvataggio dell'Unione Europea. Che cosa c'è dietro questa mossa? Approfondiremo tra un attimo, però fondamentalmente succede questo. Succede che Alexis Tsipras rischia di trovarsi in quello che ormai, con una frase che abbiamo imparato ad utilizzare in Italia, rischia di essere un Vietnam parlamentare per far passare tutte le sue riforme. Gode ancora di una forte popolarità personale in Grecia e conta evidentemente, con queste elezioni che potrebbero arrivare già il 20 di settembre, conta con queste elezioni di ricevere un mandato più forte, di liberarsi della parte sinistra di Syriza, ossia del suo partito, e sostanzialmente procedere con quello che è l'accordo raggiunto con i creditori. Parleremo di questo in apertura. Parleremo anche di mercati. Vi segnalo che in questi minuti la borsa italiana sta peggiorando nettamente, così come fanno anche le altre borse europee. Meno 2,4% il FTSE MIB, meno 2,4% il FTSE All Share, Parigi che cede quasi 2 punti percentuali, Francoforte che ne cede esattamente 2, Londra che lascia sul terreno lo 0,37%, è negativa anche l'America con il Dow Jones che cede l'1,21% e lo Standard & Poor's 500 l'1,15%. Su tutto questo pesa sull'Europa evidentemente anche la situazione greca, ma soprattutto tutto quello che sta succedendo nei paesi emergenti, le nuove tensioni di questa mattina in Cina, e questo sarà un altro dei nostri argomenti. Un netto calo anche oggi per la borsa di oltre il 3% e molte tensioni che attraversano appunto una serie di paesi emergenti che fino a qualche anno fa consideravamo come le nuove promesse anche per i mercati. Il Brasile innanzitutto, che come vi abbiamo raccontato ieri è nuovamente recessione tecnica e nel quale il reais, la moneta locale, ha perso il 35% dall'inizio dell'anno. La Turchia che va verso nuove elezioni e nella quale la lira turca ha perso il 15% dall'inizio dell'anno e oggi ha toccato un nuovo minimo. Le mosse della Banca Centrale Cinese che hanno innescato una serie di reazioni sui mercati valutari un po' di tutti i paesi emergenti e soprattutto di tutti i paesi asiatici. Cercheremo di fare un punto su tutto questo. Infine ci occuperemo di lavoro e di manovra su due fronti. Da una parte c'è la questione della revisione del sistema di contrattazione e di rappresentanza dei sindacati. Oggi il quotidiano La Repubblica dice che il governo sarebbe pronto ad agire nel caso Confindustria e sindacati non trovassero un accordo, e a rivedere anche le leggi sullo sciopero. È arrivata poco fa tra l'altro una dichiarazione del vicepresidente di Confindustria per le relazioni industriali, Stefano Dolcetta, che dice: sui contratti la soluzione migliore è un accordo Confindustria e sindacati, ma se non si raggiunge un intervento del governo potrebbe essere utile. Dall'altra parte c'è il tema della manovra. Manovra che deve arrivare e che poggerà su due pilastri fondamentali, su due pilastri fondamentali, i due pilastri finanziari più importanti, per così dire, i due capitoli di spesa più importanti sono da una parte l'obiettivo di abolizione di Tasi prima casa annunciato da Renzi, dall'altra parte c'è la decontribuzione ai nuovi assunti. Il governo vorrebbe prorogare la decontribuzione dei nuovi assunti non solo appunto per l'anno in corso come è attualmente, ma anche per il 2016. Che cosa succede? Che ci vogliono un sacco di risorse. Dunque si sta pensando a qualche intervento mirato, per esempio le donne o per esempio il Sud. Che cosa succede? Succede che quando fai un intervento mirato le cose si complicano dal punto di vista burocratico. Oggi riporta, c'è un articolo molto interessante sul Sole 24 Ore, intervisteremo uno dei due autori che è Giampiero Falasca ed è un giuslavorista che collabora anche con il Sole 24 Ore. Tutto si burocratizza. Considerate, per darvi un esempio, che la decontribuzione mirata varata dal governo Letta comprendeva 57 pagine di moduli per ogni assunto. La decontribuzione varata dall'esecutivo Renzi comprende una riga di codice che va inserita ed è questo l'esatto motivo per il quale sta funzionando, perché soprattutto le piccole e medie imprese faticano ad approcciare una cosa di questo genere. Insomma, 75 pagine di moduli, pensateci, già insomma, la burocrazia ci massacra abbastanza, pensate quanto è complicato per un'impresa fare una cosa di questo genere. Questi i temi di oggi, le notizie in breve. Ragione Alessandro da Imola che dice che non ne possiamo più di parlare di Grecia e adesso ci ritoccherà di nuovo fino al 20 di settembre almeno, eppure dopo, se veramente le elezioni saranno il 20 di settembre. E a Giorgio invece, che torna sulla Grecia e dice: svenderanno tutta la Germania. Ci voglio tornare un attimo, perché su questa vicenda della privatizzazione degli aeroporti sono girate, anzi ci torniamo subito, va, sono girate le informazioni un po' imprecise, perché non è una privatizzazione. Gli aeroporti sono stati dati in concessione per 40 anni ad una società che è una joint venture tra la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte, che ha maggioranza pubblica del lender di Francoforte sostanzialmente, e una società greca. Quindi è una joint venture innanzitutto e non è solamente tedesca. È in concessione e non è una privatizzazione, cioè gli aeroporti non sono stati venduti, e tutto è avvenuto con una gara a evidenza pubblica alla quale avevano partecipato soggetti non solo tedeschi, solamente che il soggetto che ha perso, per così dire, quello che è arrivato secondo, aveva offerto 300 milioni di euro in meno rispetto alla consociata tedesco-greca, e quindi è evidente, insomma, lo avrei fatto anch'io, mi avessero offerto 300 milioni di euro in più, sinceramente, dovendo dare una concessione l'avrei data a loro. Così anche su questo abbiamo fatto chiarezza. Iniziamo dalle materie prime. Oro ai massimi del mese, 1139,59 dollari l'oncia, in attesa di eventuali mosse della Fed. E sul petrolio abbiamo un calo anche oggi. Il WTI con consegna a ottobre è arrivato a toccare i 40,53 dollari al barile, quello e adesso è in calo dello 0,34% a 41,13. Il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra, è in calo di un punto percentuale circa a 46,7 dollari al barile. A proposito di tutto questo, la Norvegia, in Norvegia c'è una notizia interessante che è arrivata ieri: il fondo sovrano norvegese è in rosso per la prima volta da 3 anni, con 870 miliardi di dollari, il maggior fondo sovrano al mondo. Ci sono una serie di problemi, alcuni sono finanziari, altri sono legati evidentemente al petrolio. La Norvegia, così come altre nazioni dell'area cosiddetta artica e come molte big oil company, avrebbe in programma nuove esplorazioni nelle zone ben oltre il circolo polare, ma con i prezzi a questo livello e le spese da sostenere, le ricerche non sono più vantaggiose. La Cina, si diceva, ci torneremo tra un attimo, un mini tonfo della borsa, oggi mini si fa per dire, un 3,4%, annulla ampiamente il rimbalzino di ieri. La banca centrale intanto pompa altra liquidità, 150 miliardi di yuan, la maggiore iniezione dallo scorso 9 febbraio, vuol dire circa 21 miliardi di euro, attraverso pronti contro termine a 7 giorni, tasso interesse al 2,5%. Lato valute, ne parleremo tra un attimo, però abbiamo il rublo che continua a perdere terreno su euro e dollaro, come si diceva la lira turca ai minimi, il reais brasiliano che perde il 35% dall'inizio dell'anno. E giù anche la moneta del Kazakistan, altro grande produttore petrolifero che ha introdotto il cambio fluttuante ed è passato da 188 a 255 sul dollaro. Dati dagli Stati Uniti, crescono le richieste di sussidi di disoccupazione, più 4.277.000, un dato superiore alle attese degli analisti, così come inferiore invece alle attese degli analisti il super indice economico, meno 0,2%, mentre è migliore delle attese degli analisti il dato sulle vendite di case esistenti, più 2% ai massimi dal 2007. Della Grecia si è detto, e ci torneremo tra un attimo, in sintesi Tsipras annuncerà questa sera le dimissioni e poi c'è il rimborso alla Banca Centrale Europea, ne parliamo tra poco. Per quanto riguarda l'Italia, beh, siamo più sulle dichiarazioni oggi, abbiamo il ministro dell'Interno Angelino Alfano, il leader di NCD, che dice che siamo di fronte alla crisi economica più lunga dal dopoguerra, servono leggi speciali anticrisi per almeno 5 anni, chiede uno shock fiscale, uno shock burocratico e in vista della legge di stabilità presenterà a Renzi una proposta dettagliata su fisco, burocrazia e incentivi alle famiglie. E vuole una botta all'IMU e un piano per dare 7 miliardi e mezzo alle famiglie. Infine, la famosa flessibilità che chiediamo all'Unione Europea. C'è un'intervista al ministro dei trasporti Graziano Del Rio al Sole 24 Ore, nel quale dice: dopo aver già ottenuto la flessibilità per le riforme, possiamo avere un'ulteriore flessibilità sugli investimenti nell'ordine dei 5-6 miliardi di euro. Vedremo se questo avverrà. Veniamo al primo tema di giornata, la Grecia. Ragione Guido da Verona, land il singolare, lender è il plurale, giusto? Quindi ci siamo, Michele Pignatelli del Sole 24 Ore in studio con noi, buonasera. Buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. Ci siamo, era un po' previsto che si andasse ad elezioni, eh? Beh, la discussione è partita subito dopo che la settimana scorsa il Parlamento greco ha sì approvato l'accordo con i creditori internazionali, questo memorandum d'intesa per il terzo salvataggio, ma l'ha approvato solo con la stampella dell'opposizione, potremmo dire, perché è cresciuta la fronda interna e dei dissidenti di Syriza, il partito del primo ministro Tsipras. Questa fronda è talmente cresciuta che Tsipras ormai ha potuto contare su meno di 120 parlamentari, che è una soglia su 300 deputati, una soglia considerata critica, tale da non poter riuscire a governare, poi soprattutto quando bisogna far approvare misure abbastanza indigeste come quelle che sono in agenda. Sì, si diceva Michele prima, è un po' questa espressione che ormai è entrata nell'uso italiano, il rischio di un Vietnam parlamentare per Tsipras. Esattamente, la prima ipotesi in realtà che è circolata, che è quella che ancora fino a stamattina circolava, è che si potesse andare a una sorta di conta legata legata a un voto di fiducia parlamentare, che però, stando ai numeri, alle previsioni e tutto, per Tsipras con tutta probabilità sarebbe un voto di sfiducia. Allora è possibile, in questo momento Tsipras è a consulto con i suoi consiglieri politici, che il Premier abbia deciso che conviene saltare un passaggio e quindi dimettersi e quindi avviare un iter che porterebbe alle elezioni anticipate. E uso ancora il condizionale, sì. Simone, perché ci sarà dovrebbe esserci un annuncio pubblico attorno alle nostre 19 di stasera, quindi ancora sono tutte deduzioni quelle, sì, che stiamo facendo. Michele, perché tra l'altro Tsipras, come si diceva prima, gode in realtà ancora di una forte popolarità personale, quindi è una mossa che gli conviene esattamente in questo momento. Gli ultimi sondaggi, mi pare, di luglio lo davano oltre il 30%. È chiaro che forse gli conviene capitalizzare questa popolarità, come dicevi tu, piuttosto che iniziare ad approvare riforme e poi a trovarsi quindi questo consenso, ovviamente inevitabilmente eroso dall'impopolarità di molte di queste misure di austerity. E quindi chiaramente con un mandato più forte, se lui dovesse vincere ampiamente, se dovesse vincere anche senza i suoi dissidenti che stanno valutando di formare un gruppo indipendente, forse potrebbe trovarsi le mani più libere per il prosieguo della legislatura. Questo per quanto riguarda il punto di vista più strettamente politico, che però comprende un altro elemento, Michele. Oggi tra l'altro la borsa di Atene è scesa del 3,5%. Il rischio è che in questo almeno un mese che precederà le nuove elezioni il processo di riforme inevitabilmente si blocchi. Questo è un rischio concreto, direi. Il rischio c'è anche perché il Parlamento di Atene e il governo hanno già preso degli impegni, hanno già approvato dei provvedimenti, però ci sono ancora molte cose da fare, ci sono ancora molte incertezze, tant'è vero che è previsto una sorta di tagliando delle riforme attorno a ottobre, una prima revisione del memorandum d'intesa, e sulla base di queste una parte dei fondi che Atene ha ottenuto sarà sborsata o meno. Oggi, tra l'altro, Atene ha ricevuto, sì, la prima tranche di questi aiuti, ma ce ne sono altri che arriveranno successivamente sulla base. E sono condizionati evidentemente all'attuazione degli impegni. Tra l'altro, Atene oggi ha restituito i soldi alla BCE, no? Ha restituito 3,2 miliardi circa, e in buona parte erano bond che la BCE aveva acquistato con il vecchio programma SMP di acquisto di titoli dei paesi a rischio. E questo rimborso è avvenuto, ovviamente, con i soldi che sono arrivati dal ESM, il Fondo Salva Stati, che ha versato appunto una prima tranche di 26 milioni, 13 di questi destinati proprio a questo rimborso e anche al prestito ponte che Atene aveva avuto il mese scorso, quando ancora doveva rimborsare anche l'FMI. Tanto qui si vede come è un discorso molto citato da quanti sono contrari a questi salvataggi senza un taglio del debito, cioè molti di questi soldi alla fine vanno a pagare, non vanno all'economia reale, ma vanno inevitabilmente a pagare i creditori. Così è. Grazie a Michele Pignatelli del Sole 24 Ore per averci accompagnato a capire questo momento politico della Grecia. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, vedremo se saremo costretti, come ci scriveva Alessandro da Imola appunto, Alessio, scritto Ale da Imola, a continuare a parlare di Grecia ininterrottamente per i prossimi due mesi fino alla formazione di un nuovo governo. Cambiamo argomento e veniamo ai paesi emergenti. Scorsa, lo ricordiamo, la Cina ha dato il via alla più imponente svalutazione dello yuan degli ultimi 20 anni. In 3 giorni successivi il cambio ufficiale con il dollaro è stato svalutato al 4,5%. La borsa cinese continua ad essere molto pesante, anche oggi ha ceduto il 3,4%. un 3,4%, che di fatto annulla il mini rimbalzo di ieri, dopo che martedì c'era stato un netto calo. Da fine giugno la borsa cinese ha accusato un calo del 43%. In parte vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che cosa sta effettivamente succedendo, a cosa è dovuto tutto questo. A tutto ciò si associano una serie di altri problemi in altri paesi cosiddetti emergenti. Il Brasile, che da ieri è di nuovo in recessione tecnica. La Turchia, che si avvia a nuove elezioni con una lira turca che oggi ha toccato nuovi minimi. E oggi anche il Kazakistan, che ha introdotto un regime di cambi fluttuanti per, spero di pronunciarlo giusto, il tenge o il tenge, la valuta nazionale. Per la difesa della moneta ha bruciato 28 miliardi di dollari dal 2014. Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex ed esperta di mercati emergenti. Buonasera e bentornata ai nostri microfoni. Buonasera. Riesce a darci, come dire, con una pennellata su quello che sta succedendo? Ma allora, quello che sta succedendo, lei poi ha mancato di citare anche le bombe oggi tra Sud Corea e Nord Corea, perché non ci siamo fatti mancare niente, evidentemente. Detto questo, siamo di fronte a una vera e propria crisi valutaria per quanto riguarda le economie emergenti. Abbiamo sperimentato una crisi di questi paesi già nell'estate del 2013 e siamo di nuovo di fronte a dei deflussi di capitale importanti, con l'indice Morgan Stanley dell'azionario che dall'inizio dell'anno perde il 21%, e questi paesi che si trovano in situazioni politicamente difficili, come il caso appunto della Turchia e della Russia, e economicamente anche complesse, non solo in questi paesi ma anche, come le ha citato, il Kazakistan, la cui valutazione devo dire che in confronto a quella cinese è decisamente più imponente, perché parliamo di un meno 22% per lo sganciamento del tenge appunto da un regime legato al dollaro, un regime totalmente quindi legato alla libera fluttuazione sul mercato. La svalutazione del Vietnam era seguita a quella cinese, e questo è un po' la corsa che stiamo vedendo anche in altri paesi emergenti. Quindi paesi emergenti che hanno sottovalutato la questione a rialzo dei tassi americani, sul quale si sono innescati con il calo del prezzo del petrolio, le turbolenze geopolitiche, ulteriori problematiche, le cui diciamo così, gli effetti più gravi sono sicuramente quelli sulla Turchia e sulla Russia. Tra cui poi lei citava il Brasile, un Brasile che vede la Dilma Rousseff che addirittura ha dovuto subire una serie di manifestazioni popolari che ne chiedevano addirittura l'impeachment, con il consenso ai minimi, un paese in default tecnico, una divisa ai minimi, esattamente come nel caso di Russia e Turchia, e anche in questo caso una sofferenza da caro del petrolio non da poco. Concludo perché dicendo poi, che abbiamo sì. Venezuela default. Tra l'altro, perché poi il punto che forse abbiamo citato solo marginalmente, davamo le quotazioni poco fa all'inizio, oggi il WTI, il petrolio americano, il petrolio quotato a New York, cede lo 0,15%, ma è arrivato a 40,5 dollari al barile, giù dello 0,7 il Brent, quello quotato a Londra, quello del mare del nord. Ovviamente su una serie di questi paesi, penso alla Russia, il Kazakistan, lei citava giustamente il Venezuela, risentono di questo calo impressionante del prezzo del greggio degli ultimi mesi, no? Ma assolutamente, abbiamo perso un anno il 58%, sono tutte economie che si va da un'economia venezuelana che dipende praticamente al 95% dal Venezuela ad altri livelli di dipendenza che fanno sì, come nel caso della Russia, che quando il calo del petrolio si somma alle sanzioni che ha dovuto subire per la questione ucraina, è chiaro che la recessione è stato l'esito più naturale e purtroppo scontato. Il discorso invece della Turchia è paradossale, perché abbiamo un paese che importa petrolio, quindi che dovrebbe beneficiare dal calo del petrolio, e invece a causa delle problematiche politiche e dell'inefficienza nella lotta tra banca centrale e un presidente sempre più dittatore, Erdogan, che non si è ridimensionato neanche dopo le ultime elezioni, sta veramente subendo anche una fuga dei capitali dal paese, che hanno portato la lira turca a sfondare la quota $3.30 su euro. Allora, tra l'altro, ieri citavamo, per chi non era in ascolto, questa cosa beffarda che qualcuno scriveva su Twitter, dice: da quando Erdogan ha detto chi si pentirà chi compra dollari in questo momento, la lira turca ha ceduto il 12%, insomma, quindi non un bel segnale appunto per il presidente turco. Voglio tornare a parlare con lei dopo una breve pausa che abbiamo per toccare il tema di quello che dobbiamo aspettarci, soprattutto di qual è l'impatto di tutto questo su di noi e sulle nostre economie, perché insomma, della Cina abbiamo citato la crisi finanziaria, ma in mezzo c'è anche una discreta difficoltà economica, per così dire, sempre in termini cinesi, come sempre diciamo, e quindi una crescita del 6% magari contro il 7% che vorrebbe il governo e che serve a tenere in piedi solida e di corsa l'economia stessa. E quindi vorrei capire un po' da lei che cosa ci può succedere, cosa può succedere ai nostri mercati e alle nostre economie a causa di tutto quello che sta avvenendo. A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo ancora con Claudia Segre, segretaria generale di Assium Forex, esperta di mercati emergenti. La domanda che avevamo lasciato in sospeso, Segre, è l'impatto sia sui mercati finanziari che soprattutto sulle nostre economie di tutto quello che sta avvenendo nei paesi emergenti. Prego. Allora, prima di tutto abbiamo un cambiamento delle prospettive da un punto di vista valutario, soprattutto perché la Cina si aspettava di poter entrare nel paniere del Fondo Monetario entro la fine dell'anno, ma per la prima volta nella storia del Fondo Monetario questa decisione è stata spostata oltre i 6 mesi, una cosa mai avvenuta, ma che chiaramente coincide col discorso della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane. Quindi di fatto in questo momento i portafogli si stanno sganciando dal rischio valutario dei paesi emergenti, che dimostrano tutte le loro debolezze e quindi hanno paura di nuovi minimi. Mantengono le posizioni sul dollaro, tenendo presente anche queste svalutazioni che continueranno anche in altri paesi, mentre invece l'Europa rimane il bacino più interessante, ma che è stato zavorrato dalla questione certamente delle sanzioni russe e anche qui dalla problematica greca, che ha pesato non poco a livello anche di consenso degli investitori esteri. Quindi senz'altro l'Europa rimane il perno sul quale si concentrano gli investitori, come si vede anche dalla tenuta, al di là dell'allargamento minimale del nostro spread decennale, dei paesi europei, che sia dal punto di vista azionario che obbligazionario sono quelli che continuano a essere di maggiore interesse in questo momento di grande incertezza. Benissimo, la ringrazio, grazie per la chiarezza e la rapidità, grazie a Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex ed esperta in mercati emergenti, per essere stata con noi, averci aiutato ancora una volta a capire. Passiamo invece ai nostri di mercati. Chiudono decisamente male, -2,6% il FTSE MIB, -2,5% il FTSE O'Share, Parigi -2,06%, Francoforte -2,3%, Londra -0,6% e l'America che va decisamente male, anche qua -1,3% il Dow Jones, -1,21% lo Standard & Poor's 500. Ciao Condine, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. C'è un po' di Stati Uniti e un po' di Cina, da quel che mi sembra di capire, forse anche un po' di Grecia nel calo di oggi. Sì, c'è un po' di tutto, diciamo, sicuramente i timori ancora sulla crescita cinese e poi anche diciamo sugli emergenti, in particolare sulla Russia che è in profonda recessione con il calo del petrolio. Allora, questo è un primo elemento di preoccupazione. Poi c'è Wall Street che ha aperto, come hai ricordato tu, molto male, perché un passivo di oltre l'1% per Wall Street è sicuramente significativo. E poi c'è anche l'annuncio delle elezioni anticipate greche, che sono un altro elemento di incertezza. Insomma, un mix di fattori che ha portato le borse europee a chiudere sui minimi di seduta. La peggiore è Milano, che lascia sul terreno il 2,6%. Allora, ci sono solamente tre titoli positivi, anzi no, due titoli positivi alla fine della seduta. Si tratta di Ansaldo, un guadagno di 0,5% percentuale, World Duty Free dello 0,20% e giù Pirelli dello 0,20%, sono i titoli migliori del listino, ma per ragioni che nulla hanno a che fare con l'andamento dei mercati di oggi, no? Assolutamente, sono, diciamo, quotazioni tra virgolette drogate, perché sono titoli sotto OPA, quindi sostanzialmente non si muovono perché c'è già un prezzo fissato per acquistare le azioni. Ansaldo, come sappiamo, è sotto OPA di Hitachi ed è un'operazione che si potrebbe chiudere a breve. World Duty Free, la Svizzera Duty Free, e Pirelli destinata ad andare a ChemChina. Quindi tutti e tre i titoli, le equivalazioni non sono significative se non per il fatto che sono gli unici che hanno tenuto botta oggi, insomma. Gli unici, perché se considerate, cioè, come si diceva, Ansaldo che guadagna 0,5% percentuale, World Duty Free lo 0,20%, Pirelli che cede lo 0,20%, e poi c'è A2A che lascia sul terreno l'1,28%, Terna l'1,35%, Tenaris l'1,5%, Popolare Emilia Romagna l'1,6%, Eni un altro 1,6%. In questo in questa giornata rossa c'è qualcos'altro da segnalare, c'è oppure no? Ma diciamo, allora, tu hai segnalato giustamente questi titoli, diciamo, A2A e Terna, comunque titoli energetici difensivi che oggi hanno perso comunque meno del FTSE MIB, praticamente la metà. Se guardiamo un po' i titoli che hanno perso di più, ci sono sicuramente gli industriali, i pochi che restano a Piazza Affari, sicuramente le banche, e poi abbiamo anche Buzzi che ha lasciato sul terreno il 3,8%. Ricordiamo che Buzzi di mestiere fa costruzioni, cemento. Buzzi è molto esposta sui mercati emergenti, in particolare sulla Russia. È chiaro che il deprezzamento del rublo e anche le forti difficoltà dell'economia russa non possono che penalizzare l'azienda e quindi il titolo. Evidentemente hanno un peso. Giù anche Mediolanum del 4,7%, Prysmian del 4,6%, Finmeccanica del 4,12%, Enel Green Power del 4%, così come Moncler, appunto Buzzi Unicem del 3,8%, Jux del 3,7%, Autogrill del 3,6%. Giù anche Intesa San Paolo del 3,5%, Luxottica altrettanto, Mediaset altrettanto, Atlantia del 3,25%, Ferragamo del 3,3%, Atlantia del 3,38%, scusate, Ferragamo del 3,3%, CNH del 3,2%, di oltre il 3%, Exore, la Banca Popolare di Milano, appena sotto Monte dei Paschi, Azimut, ST Microelectronics e Unicredit, negativa anche Enel del 2,4%, Ubibanca del 2,4%, da dire anche che le popolari sono andate, insomma, discretamente bene nei giorni scorsi, quindi è vero che il calo c'è, però insomma forse parzialmente compensato. Generali giù del 2,3%, Campari del 2,2%, ancora giù Fiat Chrysler del 2,3%, Mediobanca del 2,27%, Banco Popolare del 2,15%, Unipolsai del 2,11%. Fuori dal listino principale c'è qualcosa da segnalare? C'è Sorin che fa più 6,1%, una fiammata nel pomeriggio dopo che è arrivata la notizia, si è sostanzialmente sbloccata la fusione con l'americana Cyberonix. Qui c'erano dei creditori che avevano presentato un ricorso al Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano ha respinto questo ricorso, una decisione del 17 agosto che è stata tuttavia resa nota oggi, e quindi diciamo Sorin è decollato, e seppur in una giornata negativa per Milano ha fatto più 6,15%. L'unico titolo, come dire, da segnalare fuori dal listino principale, sì. Sì, beh, dai, c'è Saras che è la peggiore, fa meno 7,6%, però Saras è cresciuta veramente tanto in questo 2015 per il calo del greggio, che aumenta i suoi margini di raffinazione, quindi i suoi profitti, quindi qualche realizzo su Saras ci sta. È negativa anche Geox del 7,25%, CTI Biofarma del 7,07%, BS del 6,67%, Panaria Group del 6,31%, siamo fuori dal listino principale, naturalmente, ecco, Santec del 6,25%, in cima al listino si diceva Sorin che guadagna il 6,15%, Neurosoft il 4,7%, SAP il 3,16%, Friendly Energy il 2,92%, Vianini Industria il 2,68%, e poi Soft Strategy che guadagna l'1,91%. Infine i cambi, cioè, okay, è stata una giornata, abbiamo parlato poco fa, piuttosto tesa soprattutto dal lato degli emergenti. Sì, il rublo è sceso ai minimi degli ultimi 6 mesi sul dollaro, è una cosa ancora più significativa se si pensa che tuttavia il dollaro per esempio ha perso terreno nei confronti dell'euro, l'euro si è avvicinato a quota 1,12, questo perché? Perché ieri sera è emerso dai verbali della Federal Reserve che la stretta monetaria non è così sicuro che possa essere effettuata da parte della Fed a settembre, questo ovviamente diminuisce il tasso di remunerazione diciamo dei capitali negli Stati Uniti e quindi provoca, tra virgolette, una piccola fuga di capitale, che è quello che è successo oggi, visto che il dollaro è calato. Grazie, grazie ai colleghi di Radio Cuore, il Sole 24 Ore, e grazie a CEO Condina per gli aggiornamenti di oggi. Noi tra poco torneremo sull'Italia, abbiamo parlato molto oggi di Esra, abbiamo parlato molto della Grecia, abbiamo parlato molto di quello che è successo sui mercati emergenti, parleremo tra poco di Italia. Come si diceva in apertura, toccheremo due fronti: da una parte questa idea secondo la quale il governo, se le parti datoriali, le parti sindacali non raggiungeranno un accordo, metta direttamente l'esecutivo mano al tema della contrattazione, insomma al tema della contrattazione collettiva e alla legge sugli scioperi, e dall'altra parte, sempre in tema di lavoro, la questione degli sgravi contributivi per i nuovi assunti, che dovrebbe essere una delle due grandi partite della manovra in arrivo in ottobre, una manovra che, come abbiamo raccontato, è una manovra da 25 miliardi, però le due grandi partite appunto dovrebbero essere la TASI sulla prima casa e poi la conferma almeno parziale della decontribuzione nuovi assunti. Dietro questo ci sono una serie di problemi, come evidenzia un ottimo articolo oggi sul Sole 24 Ore. Parleremo tra un attimo con uno degli autori. Traffico. Focus Economia. sei per i vostri sms. Siamo dunque a parlare di lavoro. Ci sono due fronti, come si diceva. Io vorrei partire da quello che sta forse facendo discutere un po' di più, poi verremo al tema della decontribuzione. Oggi il quotidiano La Repubblica scrive che il governo si prepara sostanzialmente nel caso che i sindacati, le parti datoriali non raggiungano un accordo sul tema della contrattazione da una parte, della rappresentanza dall'altra, la rappresentanza del sindacato all'interno delle aziende, che sono due temi tra l'altro collegati, e sugli scioperi. Potrebbe intervenire. Direttamente l'esecutivo. Su questo ci sono perplessità da parte del sindacato e invece Confindustria dice, una dichiarazione di poco fa del vicepresidente con delega alle relazioni industriali, che dice insomma tutto sommato, se non raggiungiamo un accordo, sì, insomma, il governo intervenga. Saluto Giampiero Falasca, è un giuslavorista dello studio di LA Piper, autore tra l'altro di un bel libro, io mi sento di consigliare sempre, si intitola Divieto di assumere, che forse andrà aggiornato sulla base delle norme arrivate col Jobs Act. Avvocato Falasca, buonasera. Sì, buonasera Simone, buonasera a tutti. Speriamo di fare licenza di assumere. È un libro interessante perché racconta tutte le pastoie, no, nelle quali si trovano poi gli imprenditori nel momento nel quale devono assumere, le decine di tipologie di contratti per i quali si può fare una sola assunzione, insomma tutti i problemi che abbiamo affrontato fino adesso e che comunque speriamo che si riducano. Falasca, innanzitutto partirei dal tema della contrattazione, poi verremo all'articolo che avete firmato con il collega Tucci oggi sul Sole 24 Ore, che ci porta su quello che è una delle grandi partite della manovra, ossia la decontribuzione per i nuovi assunti. Il punto sulla contrattazione: si sta ipotizzando una soglia per la rappresentanza sindacale per le trattative al 5% e una soglia per le astensioni dall'attività, ossia per gli scioperi, al 30%. Le sembra un'ipotesi buona, tutto sommato, o pensa che le soglie debbano essere più alte anche per la rappresentanza? Sì, sostanzialmente queste sono soglie di cui già le parti sociali hanno messo per iscritto negli anni passati. Penso all'accordo tra Confindustria e i sindacati del 2011. Il vero problema qual è? Non sono tanto le soglie, il 5%, il 30% sono condivise, ma oggi il sindacato è un'associazione non riconosciuta, è come il bocciofilo sotto casa, cioè giuridicamente quasi non esiste. La questione è troppo lunga, ma viene addirittura dalla mancata attuazione della Costituzione. Quindi oggi sostanzialmente il sindacato è legittimato semplicemente in via di fatto, e quindi è difficilissimo misurarne la forza, è difficilissimo dire a qualcuno tu sei al tavolo sindacale, tu no, e quindi c'è un tema proprio di problema di rappresentanza. Quindi in effetti una legge sulla rappresentanza, dal mio punto di vista, sarebbe utilissima. Il sindacato, una parte del sindacato lo considera sempre una materia di propria competenza e quindi non vuole che il Parlamento se ne occupi. Che questo tipo di paura dell'intervento pubblico poteva avere senso nel 45, nel dopoguerra, dopo la Costituzione, però ormai quel tipo di paure dovrebbero essere superate, quindi a mio avviso non è affatto sacrilego che ci sia una legge, perché oggi ripeto, cioè lei dice il tema prima ancora di pensare alle soglie di rappresentanza fare una legge che dica che cos'è il sindacato, che non è una semplice associazione ma è qualcosa di diverso, questo in sostanza, no? C'è un articolo della Costituzione che non è mai stato attuato, l'articolo 39, quello sul sindacato registrato, che diceva che il sindacato, se aveva alcune caratteristiche, poteva firmare contratti collettivi validi per tutti. Non è mai stato attuato, perché il sindacato non voleva controlli interni e quant'altro. Da lì vengono una serie di problematiche enormi. Cioè, oggi non c'è l'obbligo di pubblicare un bilancio, non c'è nulla. Cioè, il sindacato è un'associazione, quasi un'associazione di fatto. E se pensiamo a quali interessi muovi, a quale importanza sociale ha, è una situazione assolutamente curiosa, e non è una situazione che si registra negli altri paesi europei, dove invece c'è una struttura giuridica, ci sono regole sulla rappresentanza, c'è una certa efficacia dei contratti collettivi. Se ci pensate, ci siamo mai chiesti perché esistono 4, 5, 6 sigle in alcuni settori? Perché non c'è nessun criterio di selezione, e i criteri non sono esigibili, perché anche quando li mettono tengono fin tanto che le parti ritengano che debbano valere. Sì, magari a volte finisce al tavolo chi fa più casino, detta proprio brutalmente. Esatto, addirittura a me è capitato in passato di fare più tavoli sindacali, perché poi tra di loro le sigle non erano d'accordo. Cioè, è una cosa effettivamente poco sensata, no? Quindi c'è una polverizzazione della rappresentanza, perché non ci sono regole sulla rappresentanza. Poi che sia una legge, che siano accordi interconfederali, certo, se lo fanno le parti sociali da sole, come stanno facendo in questi anni, perché c'è un accordo del 2011, c'è la prova provata che non funziona fino in fondo, perché è un meccanismo, proprio perché volontario, sempre superabile. Quindi in qualche modo, insomma, io non trovo, negli anni passati Ichino, ma anche tanti hanno presentato progetti di legge, non trovo affatto scandaloso che ci sia una legge che misuri chi può stare al tavolo sindacale. Che poi diciamoci un'altra cosa, Simone, che qui i sindacati autodichiarano gli iscritti. Ma ci sono dei meccanismi per andare più o meno a controllare le deleghe di INPS e quant'altro, ma una vera trasparenza sul numero di iscritti alle diverse organizzazioni sindacali non è mai stato facile averla. Quindi insomma Se lo proporzioniamo rispetto a quanto è importante per i lavoratori, per l'economia, per la società, il sindacato fa un po' sorridere questa sì, che è un po' il tema, è un po' il tema che si è posto e si continua a porre in realtà anche con la famosa legge sui partiti, perché anche là, no, c'è un dettato, un dettato costituzionale che non è mai stato attuato, cioè non esiste una legge che regoli sostanzialmente la vita dei partiti. Veniamo all'altro tema, che sarà sicuramente un tema centrale delle prossime settimane, perché poi la legge di stabilità dovrà essere approvata entro la metà di ottobre. Come si diceva, ci sono due pilastri sui quali il governo vuole basare questa manovra: vuole far partire una grossa riduzione fiscale che comprende anche la TASI sulla prima casa, una manovra complessivamente da 25 miliardi, e però vorrebbe anche ripristinare quella che sembra essere l'azione di politica economica che forse ha avuto più successo tra quelle messe in campo. Poi che questo abbia avuto effettivi effetti sull'occupazione è un altro discorso, però parliamo della decontribuzione per i nuovi assunti. Non è detto che abbia avuto effetti sull'occupazione, questo lo diciamo spesso, perché molto semplicemente alcune sono delle trasformazioni, cioè partite IVA che con questo o contratti a tempo determinato che con questo beneficio fiscale vengono assunti a tempo indeterminato con la decontribuzione. Quindi però è chiaro che è una norma che ha avuto successo, almeno a guardare i numeri forniti dall'INPS. Oggi voi scrivete insieme al collega Tucci del Sole 24 Ore un articolo interessante nel quale raccontate che nel momento nel quale si va a pensare a sgravi mirati, che è quella che sarebbe l'ipotesi del governo, perché ci vogliono troppi quattrini per fare la stessa decontribuzione anche nel 2016, il rischio è sostanzialmente di una burocratizzazione eccessiva. Ci può portare qualche esempio? Beh sì, allora l'esempio che poi facevamo anche nel pezzo di oggi, quello più eclatante forse è quello del decreto Letta-Giovannini del 2013. È abbastanza eclatante perché l'incentivo era di importo quasi uguale a questo attuale. Erano, se non sbaglio, 500-600 euro al mese, che più o meno siamo leggermente sotto quella somma, quello dell'attuale governo sono 8.060 euro l'anno, quindi più o meno siamo lì. Allora, col decreto Letta quel tipo di incentivo era mirato soltanto a alcune categorie, e per poterlo applicare servirono un decreto attuativo e una guida operativa di 76 pagine. Adesso non vorrei, siccome si chiama decreto 76, magari erano 73 o 80, ma insomma una guida di decine e decine e decine di pagine per far funzionare l'incentivo. Poi bisognava presentare una domanda aspettando che fossero stanziati i fondi, e poi molti mesi dopo, rispetto a quando era stata fatta l'assunzione, si sapeva se si prendeva oppure no l'incentivo. È chiaro che nessun datore di lavoro sano di mente decideva di assumere in funzione di quel beneficio. La misura attuale, quella della legge di stabilità per il 2015, invece funziona nel seguente modo: assumo, il giorno stesso in cui assumo mando la comunicazione obbligatoria che dovrei comunque mandare, barro una casella in cui dico che la persona ha diritto all'incentivo e immediatamente inizio a non pagare i contributi. Quindi è straordinariamente differente dall'uno all'altro. Cos'è che cambia? A parte la procedura, il veleno che sta nella misura è proprio la selettività eccessiva, perché se io metto tutta una serie di requisiti e paletti, poi necessariamente devo introdurre una procedura per controllare se quei requisiti e quei paletti sono stati certo, cioè se io devo mettere che è una donna tra i 35 e i 50, madre o con persona a carico, residente nel mezzogiorno, è chiaro che ci vuole una guida di 70 pagine e poi diventa tutto più complicato. No? Poi c'è una cosa da dire, diciamo, questo attuale e forse è migliorabile l'incentivo di quest'anno da due punti di vista. Il primo, che paradossalmente è diventato troppo ampio, cioè una circolare di inizio anno dell'INPS ha allargato le maglie forse addirittura troppo, dicendo anche quando l'assunzione è obbligatoria ti do l'incentivo. Per esempio si potrebbe intervenire su questi che sono degli eccessi. Poi ci sono stati un po' di abusi, per cui qualcuno li hanno chiamati i furbetti del Jobs Act, se ne è abusato, e poi si potrebbe molto semplicemente dire che non sono 8.000 euro all'anno, ma magari, che ne so, 6.000, magari non per 3 anni ma per 2 anni. Cioè, se si vuole restringere, l'importante è non cambiare il metodo, perché questa misura qui è oggetto di polemiche enormi, e io dico sempre, non lo so se ha creato lavoro, le norme di solito non creano lavoro. Io dico, pensiamo cosa sarebbe stato se non ci fosse stata. Cioè, quante centinaia di migliaia di partite IVA, collaboratori, contratti a termine sarebbero ancora in quella situazione. Allora, per anni sì, abbiamo sentito discorsi a non finire sul precariato, sì, non si faceva nulla sul precariato. Dobbiamo chiudere Falasca, però la ringrazio perché il discorso è molto chiaro. Cioè, dice, meglio tenere qualcosa di un po' più generico rispetto a qualcosa che complica e poi fa sì che gli imprenditori quell'operazione non la facciano. Grazie a Giampiero Falasca dello studio di LA Piper, autore del libro Divieto di Assumere, in redazione Barbara Bianchi e Benjamin De Zulian. Grazie a Roberta Frisani in regia. A tutti voi per l'ascolto, ci sente domani dopo il GR delle 17:00.